Siamo in compagnia di Massimiliano Mazzotta, regista del documentario Manfredonia, la catastrofe continuata, che sarà programmato in piazza, a Piazza del Popolo, a Manfredonia, il 14 aprile prossimo. Massimiliano, benvenuto. Benvenuti a voi, benvenuto a voi, benvenuto a voi. Allora, ci racconti un po' di questo nuovo lavoro? Allora, questo lavoro sì, è un lavoro che diciamo che qualcuno mi ha chiesto di vederci un po' più chiaro, di mettere le prerogative di un documentario, quindi ho iniziato a giugno dello scorso anno, perché a Manfredonia è stata fatta una ricerca partecipata, una ricerca epidemiologica partecipata. Vuol dire che Manfredonia c'è stato, diciamo, un incidente, diciamo, è stato fatto un impianto Enichem o Anich, quella che si chiamava prima Anich, cioè la chimica di base, o Enichem Agricoltura, dove si producevano i fertilizzanti. Nel 76, cioè 2 mesi dopo l'incidente di Seveso della diossina, fortunatamente era una domenica, 26 settembre del 76, esplode la colonna di sintesi dell'ammoniaca e sprigiona in atmosfera varie tonnellate di arsenico, quindi anidride arseniosa. L'arsenico sappiamo che è il re dei veleni, lo usava anche Nerone, quindi anche per questo motivo, ma anche perché è di classe 1 come, diciamo, come cancerogeno, è riconosciuto come cancerogeno certo. E quindi non è mai stata riconosciuta la catastrofe continuate perché ci sono stati 13 incidenti nel sito Enica di Manfredonia, l'ultimo 17 maggio dell'84 con 150 metri di fiamme quando prende fuoco un sacco di caprolattame. Il caprolattame sono le palline di urea per produrre quella che è la fibra di nylon per poi fare i tessuti. Quindi diciamo, all'epoca la chimica di base serviva prevalentemente per l'agricoltura, medicina. Le plastiche di base, diciamo la chimica di base dell'Enichem. E quindi ho ricostruito la catastrofe, che non è solamente Enichem. Nell'88 decidono poi di voler far arrivare anche la nave dei veleni a Manfredonia, la famosa Ripsi Carrier, ce la ricordiamo, dove appunto Santoro fece una trasmissione quando era a Samarcanda. Da Manfredonia, dove appunto si rivolta la città, 40.000 persone manifestano prima per la Dipsy Carrier, poi l'Enichem vuole fare un inceneritore, non riescono a fargli fare l'inceneritore perché 40.000 persone manifestano verso lo stabilimento Enichem contro Enichem con il detto in dialetto manfredoniano ce n'uai, se ne deve andare. E quindi com'è stata la catastrofe continuata e poi dopo c'è stato anche un movimento cittadino che poi è diventato anche un movimento di donne che hanno vinto a Strasburgo contro Enichem perché 3.000 firmatarie, 3.000 donne hanno firmato diciamo, hanno vinto per uno degli articoli, l'articolo 8, cioè il danno alla vita privata. All'epoca, ribadisco, non è solo l'incidente del 76, fuga di ammoniaca, toluolo, benzene, un allagamento non indifferente. Quindi io ho fatto la ricostruzione di quello che è lo stato attuale, anche del contrasto che c'è, perché poi far chiudere l'Enichem non è stata una cosa semplice, nel senso che c'erano, come dire, contrasti non indifferenti in famiglia, anche di tipo violento all'epoca, perché cioè, magari in famiglia c'era uno che lavorava all'interno dello stabilimento e c'era chi manifestava contro, ma ribadisco, nelle stesse famiglie. Ci furono appunto le famose 4 giornate di Manfredonia dove incendiarono la porzione del comune, il sindaco scappò da dietro, dai tetti. Quindi è una storia dimenticata. Appunto, oltre che catastrofe continuata, quando si parla di Seveso, visto che hanno fatto la legge sugli incidenti rilevanti, deve diventare la legge Seveso barra Manfredonia. Questo è, poi c'è stato, come dire, 17 diciamo, lavoratori che erano anno si sono presi l'arsenico, che avevano l'arsenico, diciamo, secondo i limiti tu potresti avere, facevano gli esami della, diciamo, delle urine, e potevi avere fino a 100 gamma litro. Se superavi 100 gamma per litro non potevi lavorare in stabilimento. Ma il problema è che io non voglio neanche quei 100 gamma litro ormai, cioè siamo a un passo dopo OIL, come dire, dopo il primo documentario, nel senso che io non esiste un limite. Il cancerogeno è un cancerogeno, certo, e non c'è un limite. Il limite lo stabiliscono ovviamente le multinazionali insieme alla scienza, probabilmente. Certo, certo. Massiliano, la scienza, attenzione, è importante la scienza, perché io arrivo a Manfredonia perché a Manfredonia è stato fatto uno studio epidemiologico partecipato che non credo sia stato fatto in nessun impianto italiano, i ricercatori hanno, diciamo, condiviso lo studio epidemiologico con la popolazione che voleva partecipare allo studio epidemiologico. Quindi il comune di Manfredonia, quando è stato risarcito di un tot da parte dell'ENI, invece di fare la solita statua con la colonna fumante che brucia, ha reinvestito i soldi facendo una ricerca partecipata, che in parte nel film si vede, e quindi c'è stato fatto uno studio Sentieri sulle malformazioni, che non è solamente Manfredonia ma è anche Taranto e Brindisi, che sono le altre due, diciamo, località pugliesi, dove appunto sappiamo bene che cosa, quali impianti ci sono. Massimiliano, apro brevemente anche una parentesi rispetto alla vicenda delle donne. Abbiamo ospitato a Radio Teatro uno spettacolo dedicato a quella vicenda. Ti chiedo, rispetto a questo, a questi fatti, a questa catastrofe continuata, la bonifica che c'è stata, a che livello siamo? Allora, la bonifica, come dice anche il sindaco, il problema vero lì è la falda, perché i siti di interesse nazionale, perché Manfredonia è un sito di interesse nazionale per le bonifiche, comprende tre comuni, che sono Monte Sant'Angelo, Mattinata per il mare e Manfredonia. Quindi non hanno una competenza che non è sovracomunale, non hanno potere probabilmente decisionale di poter decidere. Però, diciamo, credo che, come dice il sindaco, in parte è stata fatta, ma lì è un terreno carsico, quindi hanno fatto quello che si chiama barriera idraulica, hanno fatto tanti buchi attorno, depurano l'acqua, la rimettono nel depuratore e poi la ributtano in falda, però non credo abbia portato dei risultati. Invece, per quanto riguarda il mare, non vorrei essere nei panni di nessun tecnico, né della Sindia né di chiunque faccia la bonifica, perché io non saprei da dove partire per bonificare il mare. Certo, certo. Non so se magari un altro pianeta potrebbe aiutare a svuotare questo e a riempirne un altro completamente depurato. Mm-hmm. Questo non te lo so dire, però dico, è molto difficile. Certo. Il mare non è considerato, e la pesca, come dire, non si può dire che c'è una diretta, come dire, connessione rispetto alla chimica, come sappiamo sempre. Quando lo diranno lo sapremo tutti, ma anche lì la pesca è cambiata, come anche nel film lo dicono, io con la fiocina addirittura si passa da parte a parte dentro lo scoglio, vuol dire che c'è qualche cosa che non va, come dire, gli scogli che vedo nel Salento sono scogli, sì. Se cado mi faccio male, sì. non sono burro. E quindi, come dire, io ho ricostruito attraverso anche e grazie al finale della ricerca partecipata, che io sono arrivato il 16 giugno, che era il giorno in cui venivano, diciamo, pubblicamente resi pubblici lo studio epidemiologico che era stato fatto. E quindi all'interno del coordinamento ci sono ancora le donne, le famose donne di Bianca Lancia, l'associazione che poi è nata appunto dopo la vittoria di Strasburgo nell'88. Massimiliano, vedo che anche che il tuo documentario lo stai portando in giro. A questo proposito ti chiedo i riferimenti web per seguire il suo percorso. Allora, inizialmente, diciamo, noi con l'amministrazione comunale, con i ragazzi in collettivo, intanto voglio dire anche spendere due parole su chi ha finanziato, diciamo, il rivista che è l'organo ufficiale dell'Associazione Italiana di Epidemiologia e Medicina Democratica. E Medicina Democratica, io l'ho diciamo, in parte spiegato nel film, non sono i medici. Medicina Democratica nasce, io lo spiego nel film, grazie ai vari Gabriele Bortolotto a Porto Marghera, a Carretto, a Brindisi, in questo caso Nicola Lovetto, a Manfredonia e Luigi Mara, che Luigi Mara era uno dei, diciamo, lavorava in uno degli impianti di Castellanza dell'Enitem, e era uno dei simboli, perché Luigi ha aperto entrambi gli archi all'interno dello stabilimento di Castellanza e da quel momento ha iniziato a descrivere tutti gli impianti in maniera dettagliata, quella che si chiama il ricostruire il ciclo produttivo. E quindi Medicina Democratica ha un ruolo importante nella storia, credo, della clinica italiana, ed è giusto dare il valore a tutti gli operai che ci hanno fatto vestire in qualche modo con quella fibra di nylon e quindi che ci sono morti con quella fibra di nylon. E credo che la storia di Nicola Lovecchio sia emblematica, perché Nicola è stato aiutato da Luigi a ricostruire gli impianti grazie anche a Maurizio Portaluri, che è stato il medico che ha, diciamo, dopo varie si è scoperto, Nicola ha scoperto dopo 2 anni che avevano nascosto che aveva un tumore al polmone, che era già un nodulo polmonare presente in una radiografia di 2 anni prima. Quindi tu fai continuare a lavorare, quindi è una vera e propria mattanza, così non è un lavoro. Sì. Io capisco che abbiamo bisogno della fibra di nylon, però credo che la scienza possa studiare un modo che la fibra la mandiamo un postino ogni tanto e che ci dà la fibra e che non muore nessuno. Sì. Credo, eh? Sì. Massiliano, i riferimenti web? Perché Manfredonia non è solo il film, faremo la prima edizione di Arsenicem Environmental Film Festival, e sulla pagina di Facebook c'è anche il film di Manfredonia, non c'è un sito web del film per il momento, abbiamo anche in maniera veloce, perché noi abbiamo iniziato le riprese a giugno, ma poi effettivamente tra ottobre e novembre, quindi abbiamo avuto anche 2 mesi per montare il documentario. La prima sarà appunto a Manfredonia il 14 di aprile in Piazza del Popolo alle 21 e poi il 21 di aprile alle 21 a Napoli al teatro OPG Jesu Pazzo in via Renato Mindriani 218 a Napoli durante, diciamo, il convegno nazionale che fa Medicina Democratica. Benissimo. Massiliano, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, volevo fare solo un ringraziamento a tutte le associazioni, Associazione Salute Pubblica, l'Autorità Portuale di Manfredonia, Capitaneria di Porto, Compagnia Teatrale Attori per Caso di Manfredonia, il Comune di Manfredonia, Comune di Monte Sant'Angelo,